Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io la penso come Umberto Eco. I promessi sposi andrebbero proibiti per legge. Perché una volta che li proibisci diventano affascinanti. Il fatto di aver costretto a leggere i promessi sposi ha portato tanti di noi a odiare i promessi sposi. Eppure i promessi sposi sono meravigliosi. Umberto Eco dice dovrebbero essere trasformati in una lettura proibita, perché a quel punto tornerebbe il fascino di andare a leggere i promessi sposi e scopriremo i promessi sposi per quello che sono, un capolavoro assoluto. Anche di questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha parlato Renzi oggi alla LUISS, ha parlato naturalmente di politica, di Europa, del governo che ha accusato di essere autoritario, che in realtà è perché non è pigro, sono professori pigri che dicono autoritario. Fra le altre cose ha parlato anche dei promessi sposi, dicendo che se fossero proibiti, invece di renderli noiosi come fanno alcuni insegnanti, secondo lui, bisognerebbe leggerli forse in modo un po' carbonaro, sapete, appunto quelle cose proibite che quindi diventano anche più appetibili, più desiderabili. Questo è un suo punto di vista, dice, ha citato anche Eco. In realtà forse si può dire che dipende davvero dagli insegnanti, no? Rendere un romanzo, un libro, un'opera, ma anche una materia più interessante. Comunque, questa è l'opinione di Renzi, ma di scuola torneremo a parlare questa sera, perché il ministro Poletti, che è ministro in realtà del lavoro, ma che collega le due cose, oggi ha lanciato, come possiamo dire, un attacco provocazione sulle vacanze estive, dicendo che sono troppo lunghe. Ne parleremo di questo, mi raccomando, è l'argomento che vi lancio questa sera. Una Roberta Giordano rediviva, sono di nuovo qui con voi dopo questo malanno piuttosto pernicioso, non in perfetta forma, insomma con qualche fusibile ancora da aggiustare. Ringrazio naturalmente i colleghi, bravi colleghi che mi hanno sostituita in questo periodo, Maria Piera Ceci, Gigi Donelli, e in particolare un grazie ad Anna Rita D'Ambrosio, l'affettuosa, oltre che brava Anna Rita D'Ambrosio. Bene, si ricomincia allora, si ricomincia la settimana insieme. Vi dicevo, l'argomento in particolare sul quale vorrei i vostri interventi questa sera è questo: le vacanze degli studenti effettivamente sono troppo lunghe? 349-238-6666 è sempre il numero per i messaggi, 349-238-6666, oppure, lo sapete, è sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Quindi approfondirò come al solito vari argomenti con gli ospiti, intanto vi racconto che giornata è stata. Vertice Merkel-Tsipras, vogliamo una Grecia forte, dice la cancelliera tedesca, rispettiamo i trattati, commenta il premier greco, ma sono necessarie correzioni sul piano sociale. Crisi, la ripresa in Europa si rafforza, dice Draghi. Scuola, per il ministro Poletti sono troppi 3 mesi di vacanza, ma gli studenti replicano non conosce la realtà. Renzi interviene alla LUISS, chi parla di governo autoritario lo dice perché è pigro, e sulla legge elettorale assicura Renzi tra 5 anni ce la copierà mezza Europa. Monza, si è costituito il presunto pirata della strada che domenica ha causato la morte di un 14enne. La strage di Tunisi, oggi i funerali e l'ultimo saluto per le vittime italiane. Per il calcio, caso Oriundi in nazionale, Mancini contro Conte in azzurro, afferma il tecnico interista, solo chi nasce in Italia. Partiamo quindi dall'incontro che si è tenuto oggi tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il primo ministro greco Tsipras, che hanno discusso di argomenti relativi all'intera eurozona, di argomenti bilaterali, anche se la Merkel ha ribadito che non spetta alla Germania valutare il pacchetto di riforme della Grecia, questo è il ruolo invece, dice, dell'intero Eurogruppo. Anche se ha esordito in conferenza stampa dicendo vogliamo che la Grecia sia forte economicamente, che cresca, che venga fuori dalla alta disoccupazione, in particolare da quella giovanile. Tsipras, per parte sua, ha detto rispetteremo i patti, i trattati, ma ha ribadito che gli accordi tra Atene e l'Europa non dovranno in alcun modo penalizzare la giustizia sociale. Ha citato esplicitamente, fra l'altro, la questione dei risarcimenti di guerra che la Grecia pretende da Berlino. Poi ci recupereremo più tardi in modo più approfondito, vedremo anche che risposta ha dato Angela Merkel. Intanto il presidente della Banca Centrale Draghi ha pronunciato un discorso ottimista oggi sulla situazione economica dell'Unione di fronte alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, ha detto che la crescita in Europa prende slancio, siamo più fiduciosi, ci sono buoni segnali, ha detto Draghi, siamo più fiduciosi di 4 mesi fa, la politica monetaria si sta trasmettendo all'economia reale, ci sono diversi segnali come il maggior credito alle imprese. E ora spostiamoci sulla politica interna con Renzi, intervenuto oggi, vi dicevo, la LUISS di Roma, oltre ad aver ricevuto da Mattarella per il momento l'interim per il Ministero delle Infrastrutture dopo le dimissioni di Lupi. Inizia la settimana salendo al Quirinale Matteo Renzi. La necessità di spiegare al capo dello Stato non solo la vicenda che ha portato alle dimissioni di Lupi, ma anche lo stato dei rapporti con il nuovo centrodestra e con la minoranza del PD. La preoccupazione del Colle resta la stessa, che la legislatura vada avanti per realizzare le riforme promesse e che per farle la maggioranza abbia i numeri sufficienti. Con il via libera all'interim, a Renzi, sulle infrastrutture, Mattarella avrebbe detto sì anche al mini rimpasto nell'esecutivo che porterebbe l'NCD ad avere un altro ministero di peso. Altro capitolo, quello dei sottosegretari indagati. Renzi ribadisce no alle dimissioni per un avviso di garanzia. Se consentiamo di stabilire un nesso tra l'avviso di garanzia e la dimissione, parte il principio per cui i magistrati decidono sul potere esecutivo. Più in generale sulla corruzione, il Presidente del Consiglio aggiunge: spero che le nuove norme sulla prescrizione siano approvate presto. Il Premier respinge quindi l'accusa, arrivata anche dalla minoranza Dem, di guidare un governo autoritario. Quanto alle riforme dice: bene la legge elettorale, cambiare l'articolo 18 è di sinistra, ora il nuovo welfare. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla scuola, vi dicevo, in particolare sulle vacanze estive, oggi ha lanciato appunto la sua proposta il ministro del Lavoro Poletti. Nel cantiere ancora aperto della riforma della buona scuola fa discutere la proposta di Giuliano Poletti. Per gli studenti 3 mesi di vacanza sono troppi. Uno potrebbe essere passato a fare formazione professionale. È l'idea del ministro del lavoro, convinto che d'estate non faccia male agli studenti fare qualche ora di lavoro invece di stare tutto il giorno a spasso per strada. Vogliamo fare in modo che ci sia la possibilità per i giovani di fare e durante l'anno scolastico e durante l'estate qualche ora di esperienza nell'impresa, perché crediamo sia un buon modo perché i giovani maturino maggiori opportunità per l'occupazione e dall'altro lato abbiano un'idea più chiara del loro futuro. La proposta piace ai genitori del movimento Moige, secondo cui sarebbe meglio distribuire le vacanze durante tutto l'anno piuttosto che cumularle in estate. Plaude anche l'Associazione Nazionale Presidi, mentre la UIL Scuola sottolinea che in Italia non c'è un surplus di vacanze e chiede di lasciare ai genitori l'ultima parola sulle attività estive dei figli. La metà degli studenti italiani in estate già lavora, sostiene invece la rete degli studenti che boccia la proposta di Poletti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, avete sentito, questo è un argomento molto caldo, avete sentito già le polemiche, altre ci saranno, si vedrà come si evolve la situazione, però è chiaro che se mai fosse presa una decisione di questo tipo, cioè di accorciare le vacanze estive, di fare formazione, poi bisogna vedere che tipo di formazione, come dice il ministro Poletti, insomma sarebbe un po' una rivoluzione, non so quanto copernicana, ma cambierebbero diverse cose per gli studenti, per le famiglie, per gli insegnanti. Cosa ne pensate? Di nuovo vi dico il numero per gli sms, che è il 349 238 6666. Intanto ringrazio tutti quelli che mi stanno dando il bentornata anche sulla pagina Facebook di Effetto Note, e anche lì potete continuare a scrivere i vostri commenti su cosa ne pensate di questa proposta, provocazione, come vogliamo dire, del ministro Poletti. Intanto concentriamoci anche sulla cronaca, perché si è costituito il presunto pirata della strada Monza, l'autista del SUV che domenica avrebbe provocato un grave incidente, poi scappando, in cui ha perso la vita un 14enne mentre sua madre è rimasta gravemente ferita. Sarebbe un 40enne brianzolo che per il momento è indagato a piede libero. E oggi sono stati i funerali delle vittime italiane della strage di Tunisi. Il silenzio, la commozione e la rabbia durante i funerali di Antonella Sesino e Orazio Conte a Torino sono due delle vittime italiane della strage del Bardo. A loro l'omaggio della città a partire da sabato notte nella camera ardente allestita a Palazzo di Città, visitata da migliaia di persone. Antonella Sesino era una dipendente del comune di Torino, così come lo è Carolina Bottari, compagna della seconda vittima, rimasta anche lei ferita durante l'attacco di Tunisi. Intorno alle 13.30 il corteo funebre e poi alle 14 i funerali, con centinaia di persone riunite all'esterno della consolata. Il vescovo di Torino, Cesare Nosilli, ha parlato di una strage degli innocenti che deve scuotere le coscienze. Chi si serve della violenza e sceglie la via del sangue aggredendo cittadini inermi, ha aggiunto Nosilli, non avrà mai la vittoria. Accanto alle famiglie e agli amici delle vittime, il sindaco di Torino Piero Fassino, il ministro tunisino al turismo e il console generale in Italia, mentre per il governo italiano c'era il vice ministro Costa. 3 le vittime piemontesi, fra loro anche Francesco Caldara, oggi i funerali a Novara. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E adesso parliamo di TV, giustizia e politica, tutte intrecciate, diciamo, in questa serie, perché dopo Romanzo Criminale, dopo Gomorra, arriva la serie TV su Tangentopoli. Si chiama 1992, composta da 10 episodi, domani andrà in onda su Sky, contemporaneamente in 5 paesi. I primi 2 episodi sono stati presentati oggi alla stampa. 1992 nasce da un'idea di Stefano Accorsi, che recita anche nella serie nel ruolo di uno spregiudicato manager pubblicitario. A lui Alessandra Schepisi ha chiesto come mai è la TV e non il cinema a raccontarci questo periodo di storia del nostro paese. Eravamo partiti che voleva raccontare gli ultimi 20 anni di storia della politica italiana, della nostra politica, della nostra storia repubblicana recente, la Seconda Repubblica. Ci siamo concentrati su 92, però appunto questo è l'inizio di una trilogia, l'idea è fare 92, 93, 94, quindi quando c'è un progetto così vasto la serialità è perfetta. Noi raccontiamo in 10 episodi 10 mesi, anche numericamente sono 10 ore di narrazione, è chiaro che hai molto più tempo a disposizione anche per quello che riguarda tematiche, proprio l'attualità, i fatti, semplicemente mettere in fila anche una selezione di fatti del 1992 implica tempo. 1992, se ci penso, è una serie molto ispirata comunque, nel senso che nasce da un desiderio autentico di raccontare anche quello che non siamo abituati a vedere rispetto alla politica e al mondo dell'economia. E per chiudere il calcio con due notizie, una è attesa la sentenza su Calciopoli e poi l'altra è questa polemica, avete sentito, che è scoppiata tra il tecnico dell'Inter Mancini e il tecnico della Nazionale Conte, perché Mancini sostiene che non potrebbero giocare i giocatori oriundi, cioè che non sono nati in Italia, che poi però si sono naturalizzati in Italia, mentre Conte dice queste sono le regole del calcio, non sono il primo né sarò l'ultimo che sceglie, che convoca anche dei giocatori oriundi. Poi ne parleremo in modo più approfondito più tardi con Dario Ricci. Intanto vi ringrazio per i tanti messaggi che stanno arrivando, diciamo che raccolgo tutti i messaggi che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666 a proposito del bentornata che mi state dando molto affettuosamente, con questa poesiola di un ascoltatore o ascoltatrice che non si è firmato: 2 settimane di apprensione per i fan della trasmissione dovuta all'assenza di Roberta con l'influenza, di tutti noi, da tutti noi bentornata Effetto Notte, grazie. E con questa poesiola ci prendiamo un attimo per aggiornare chi sta viaggiando. Vi ricordo adesso di scrivere sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte la vostra posizione, la vostra opinione su quello che ha detto oggi Poletti, cioè che ci sono 3 mesi di feste, di vacanze per la scuola, sono troppi per gli studenti, che bisognerebbe dedicare magari 2 mesi alla formazione. Già l'Unione degli Studenti si è detta assolutamente contraria. Sentiremo poi, ci sarà anche il sottosegretario all'istruzione Faraone, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, adesso vi riepilogo brevemente le notizie più importanti della giornata, poi ci soffermiamo in modo particolare su questa proposta, provocazione, continuo a dire così, di Poletti, perché a seconda da che parte è letta. Poi ne discuteremo tra poco con il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone e anche con il vicepresidente dell'Associazione dei Presidi, sentiamo cosa ne pensano. E voi continuate naturalmente, un sacco di commenti stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Andiamo prima con le notizie. Renzi oggi alla Luis è intervenuto su vari argomenti, ha detto il governo è autoritario, non decidere porta nella palude. Poi è stato un'ora dalla presidente Mattarella per avere l'interim alle infrastrutture dopo le dimissioni di Lupi. Oggi il vertice tra Merkel e Tsipras, vogliamo una Grecia più forte, ha detto la cancelliera tedesca, e Draghi intanto vede buoni segnali di ripresa per l'Unione Europea. Sono troppi 3 mesi di vacanza a scuola e polemica sulla dichiarazione di Poletti, lui ha detto serve 1 mese di formazione, i miei figli d'estate lavorano. Poi da Salvini al PD parte la corsa al dopo Pisapia, sapete il sindaco di Milano ha detto resto ancora per questo anno e 2 mesi che mi restano ma poi non mi ricandido, quindi parte la corsa alle candidature. Intanto dentro i Dem sono un po' ai ferri corti su questa cosa, Cooper lo attacca e dice i renziani ci insultano. Calciopoli è attesa la sentenza, ma oggi dovrebbe andare prescritto ma non assolto. E poi c'è questa polemica sulla nazionale agli italiani, che dice Mancini non ci devono essere gli oriundi, mentre Conte dice è una regola, in realtà è così che si lavora. Oggi c'è stato l'ultimo saluto alle vittime di Tunisi, la violenza non vincerà, è stato detto durante l'omelia. E poi si è costituito a Monza il pirata della strada sul SUV, il dolore dei compagni del 14enne che è morto, una rosa per ricordarlo. E soffermiamoci allora su quello che oggi ha creato non poca polemica, bisognerà vedere poi nei prossimi giorni cosa succederà. Insomma, a proposito di scuola, il ministro del lavoro Poletti oggi ha preso di mira, diciamo così, le vacanze scolastiche estive, commentando: tre mesi di vacanza sono troppi. Non è in realtà la prima volta che si torna su questo argomento, però oggi l'ha detto con una certa fermezza Poletti. Un mese di vacanza va bene, ha detto, ma non c'è un obbligo di farne tre, magari uno potrebbe essere passato a fare formazione. Comunque una discussione da affrontare, ha detto Poletti. I miei figli d'estate sono sempre andati al magazzino della frutta a spostare le casse, sono venuti su normali, non sono speciali, meglio pensare quindi ad attività alternative. Sentiamo un passaggio di quello che ha detto Poletti. Perché noi accettiamo che un ragazzino sia fatto per le strade della nostra città tranquilli, belli come il sole, ma se decidiamo che va a fare 4 ore da una qualche parte in un ufficio, in un'azienda, lo stiamo distruggendo? Io credo che dovremmo anche noi genitori, l'audio era questo quando è intervenuto in questo convegno, ma diceva che insomma, non si distruggerebbe un ragazzino invece di stare a spasso per le strade della città, dice, va a fare 4 ore di lavoro. Stanno arrivando tantissimi vostri messaggi. Qualcuno scrive: Poletti pensa a prestazioni gratuite o retribuite? E poi dice un altro ascoltatore: sono Marco da Verona, sono un insegnante di lingue, sono favorevolissimo alla ridistribuzione delle vacanze nel corso dell'anno, consentirebbe a noi docenti di ricarburare ed eviterebbe lunga trascuratezza degli studi da parte degli studenti. E poi un altro, Luca da Pavia: capirai che novità, la scoperta dell'acqua calda, quello che si dice da anni, si chiama stage fruito, se dura meno di un mese oggi è perché i docenti non sanno organizzare i più lunghi. E poi sappia il ministro, dice Nicoletta, che io ho richiesto 2 ore di permesso e mi è stato imposto di astenermi dal lavoro per l'intera giornata, sono un insegnante che è stata costretta a una vacanza così come i miei studenti. Mentre altri si dicono contrari, dicendo che in realtà soprattutto sono degli insegnanti, alcuni che dicono sarebbero favorevoli appunto alla redistribuzione, come diceva un ascoltatore, e altri invece che dicono in realtà bisogna conoscere bene la realtà degli studenti, anche degli insegnanti. Poi Albert scrive: l'esperienza di lavoro nelle aziende dovrebbe essere obbligatoria per gli aspiranti ministri della Repubblica Italiana. A questo punto vorrei coinvolgere l'onorevole Davide Farone del PD, sottosegretario. Buonasera Farone. Buonasera a voi. Sottosegretario al MIUR, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ha sentito cosa ha detto Poletti e c'è un po' di fibrillazione naturalmente intorno a un'affermazione del genere, no? Ma io distinguerei un'esigenza posta al Ministro Poletti di costruire le condizioni affinché vi sia una relazione fra il lavoro e la formazione, a cui noi diamo risposta con nel disegno di legge sulla buona scuola che avevo presentato in Parlamento, prevedendo 400 ore obbligatorie annue su alternanza scuola-lavoro, dall'esigenza di ridurre le possibilità di vacanze per gli studenti. Io partirei da un dato, e cioè il dato che gli studenti italiani sono fra gli studenti in Europa che fanno più ore di lezione. Altra cosa potrebbe essere l'esigenza di distribuire quelle vacanze durante tutto l'anno scolastico, quindi anziché fare 3 mesi farne di meno ma recuperarle in altre giornate dell'anno. Questa potrebbe essere una soluzione. Però l'idea di costruire le condizioni affinché gli studenti vengano spremuti eccessivamente e vengano fuori degli autonomi più che delle persone, dei cittadini, mi sembra un'idea da cui dobbiamo fuggire. Quindi lei sarebbe un po' contrario, nel senso, dice, o si redistribuisce un po' il carico di queste vacanze durante l'anno o altrimenti si rischia. Per esempio l'Unione degli Studenti ha detto che il rischio è quello dello sfruttamento, perché il ministro per esempio ha parlato dei figli che andavano, non so se ancora adesso, a scaricare le cassette di frutta. Dice, questa non è formazione, magari pretende anche il ministro che lo si faccia gratuitamente, questa è l'obiezione. Ma io vorrei che si evitassero le ideologie che ci hanno portato ogni volta a non poter discutere del rapporto scuola-azienda e scuola-aziende in maniera serena, per cui se c'è un rapporto di formazione e lavoro ci deve essere di per se stesso uno sfruttamento, non è per nulla così, ci sono possibilità di costruire rapporti positivi con le imprese. L'altra esigenza a cui bisogna rispondere è quella comunque di tenere le scuole aperte anche d'estate, magari utilizzando strumenti diversi rispetto agli insegnanti, utilizzando le associazioni no profit o altre, altri strumenti che consentano ai genitori di poter soddisfatta questa di poter vedere soddisfatta questa domanda che c'è ed è molto pressante. Però l'idea che si debba trattare tutto con questa, diciamo, approssimazione non mi convince. Dobbiamo da un lato costruire rapporti positivi con le imprese e continuare ad agire come stiamo facendo noi con le ore di alternanza scuola-lavoro. Al tempo stesso però diamo la serenità alle ragazze e ragazze di poter andare in vacanza tranquilli senza che li si spreme eccessivamente. Sento infatti già un po' la loro preoccupazione nell'aria. Comunque, ritornando ai molti messaggi che stanno arrivando, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Michele dice: ma quale sfruttamento? Così imparano a vivere. Massimiliano dice: secondo me Poletti sbaglia focus. Prima di parlare del tempo trascorso in vacanza, non sarebbe una brutta idea rendere l'offerta formativa consistente, completa e approfondita, cosa che per ora non è possibile. Poletti non dovrebbe preoccuparsi troppo per i suoi figli, vista la tendenza dei figli dei politici italiani che scaricano o non scaricano le cassette di frutta al loro futuro. Ci penserà papà, insomma, questo per le polemiche e gli scandali di questi giorni. Vorrei coinvolgere anche Mario Rusconi intanto. Buonasera Rusconi. Buonasera. Che oltre che preside del liceo Newton di Roma è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Quindi voi che lavorate sul campo, cosa ne pensate di una proposta del genere? Ma guardi, io concordo pienamente con quello che ha detto il sottosegretario Faraone. Anzitutto non vorrei che si ingenerasse nelle persone che sentono le frasi un po' in libertà del ministro Poletti l'idea che gli studenti italiani hanno meno ore nel curriculum rispetto agli studenti dei paesi dell'Ocse. Sono tra gli studenti che hanno il maggior numero di ore, quindi non è una questione di sovraccaricarli. Secondo poi, l'idea del utilizzare maggiormente il periodo estivo, beh, io mi aspetterei da un ministro, in questo caso il ministro del lavoro, delle proposte che non siano semplicemente un effetto annuncio, ma delle proposte che siano, diciamo, in qualche modo praticabili. Faccio un esempio molto chiaro: dal 1995, cioè da ben 20 anni, noi abbiamo una direttiva, allora se non sbaglio il ministro si chiamava Lombardi, era un confindustriale, che prevede che le scuole possono essere aperte di pomeriggio, d'estate, con, dall'associazione dei genitori, da cooperative, eccetera. Cioè gli strumenti dal punto di vista giuridico, amministrativo, legislativo ci sono. Allora io mi aspetto che se un ministro dice una cosa di questo tipo, metta le istituzioni in condizioni di poter operare. Apriamo le scuole di pomeriggio, benissimo, risorse, perché bisognerà pagare i bidelli, chi apre, chi chiude. Vogliamo aprire le scuole d'estate? Io penso, per esempio, da anni proponiamo noi come associazione dei presidi l'apertura delle scuole d'estate da cooperative di giovani, in maniera tale che cerchiamo anche in qualche modo di dare una spinta a quel tremendo problema che è la disoccupazione giovanile, per poter fare corsi d'aggiornamento, corsi di perfezionamento, stage, laboratori, scambi con l'estero. Ci sono mille opportunità. Però, ripeto, da un ministro, a meno che mi permetta di parafrasare la frase di Matteo Orfini, che a meno che non dica chiacchiere da bar, come ha detto Matteo Orfini parlando di D'Alema, io mi aspetto che mi dica il problema e la soluzione del problema. Se mi pone solamente il problema e non mi dà le risorse e le soluzioni, vuol dire che sta facendo un effetto annuncio che ha poco significato. Poi vorrei risentire naturalmente il sottosegretario Faraone. Leggo ancora qualche messaggio e poi sentiamo anche un passaggio di quello che ha detto Renzi fra i vari argomenti che ha toccato oggi. Stefano dice: ragione Poletti, indipendentemente dal modo provocatorio con cui l'ha detto, maggiore efficienza e produttività anche nella scuola. Nuccio dice: la maggioranza dei ragazzi d'estate fa un lavoretto, lo fanno le mie figlie e lo hanno sempre fatto. Il ministro parla senza conoscere la realtà, tipico di una classe politica che vive su un altro pianeta. Vittorio scrive: ho 16 anni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e sono d'accordo col ministro, i ragazzi come me dovrebbero andare a lavorare per capire meglio come gira il mondo. Sentiamo questo passaggio di Renzi. L'Italia dei prossimi 50-100 anni sarà non come l'avrà fatta la riforma del lavoro, che pure ovviamente difendo, o la riforma della pubblica amministrazione, su cui giochiamo molto, o la riforma costituzionale o il sistema della legge elettorale. Sarà come riusciremo a fare da oggi il modello educativo, culturale e di ricerca universitaria. E su questo tema noi ci giochiamo una delle chance di essere una superpotenza mondiale. Sottosegretario Faraone, ha sentito Renzi che dice: noi dobbiamo puntare sul modello educativo per diventare una superpotenza mondiale. Poi il vicepresidente dei presidi Rusconi, prima sentiva, ha detto: vediamo che non siano chiacchiere da bar, se pone il problema ci devono essere le risorse, bisogna che sia stato ben ponderata questa affermazione, quello che c'è dietro. Ah, fatto che abbiamo messo al centro l'azione del governo la scuola, credo che sia abbastanza chiaro ai cittadini. Abbiamo destinato risorse, abbiamo fatto un ambizioso disegno di legge, più altre leggi e deleghe che prevederemo nelle prossime settimane. E credo che le affermazioni che fa il Presidente del Consiglio siano affermazioni assolutamente corrette. Noi su questo sistema di formazione, sulla sinergia fra la scuola, l'università, il mondo delle start-up, il mondo del lavoro, ci giochiamo tantissimo. Oggi tutti questi sono stati, diciamo, vasi che non hanno comunicato uno con l'altro. Quindi bisogna costruire questa comunicazione e bisogna farlo a una prospettiva di crescita del Paese. Al tempo stesso credo che poter dare la possibilità di un utilizzo, di rendere operativa quella legge Lombardi a cui faceva riferimento poco fa, dottore Rusconi, così come rendere operativa l'autonomia delle scuole, è uno degli elementi di questa riforma. Noi abbiamo previsto l'autonomia delle scuole, abbiamo previsto il fatto che queste scuole stiano aperte anche in orari extrascolastici, ma poi non abbiamo dotato le scuole degli strumenti. Noi già con questo disegno di legge prevediamo strumenti che rafforzino l'autonomia e utilizzo delle scuole con orari diversi rispetto a quelli tradizionali. Quindi ci vorrà del tempo. Diciamo che adesso è stata un po' prematura questa affermazione di Poletti. Le chiedo l'ultima cosa, Davide Farone. Hai sentito oggi Renzi dice che forse bisognerebbe proibire a scuola i promessi sposi perché così si rendono più desiderabili, insomma, se fossero una cosa che a scuola non si fa più, che li rendono noiosi, che ne pensa? Ma io tutto ciò che è impostato come coercizione l'ho sempre rifiutato, quindi se la lettura dei promessi sposi avvenisse a casa, autonomamente o al mare o in un bar, probabilmente sarebbe più apprezzata dell'obbligo della lettura di un insegnante che poi ti chiede il passo a pagina X. Credo che questo intendesse il Presidente del Consiglio, io condivido questa come impostazione per i promessi sposi, ma per tutto ciò che impostato in quel modo lì. La ringrazio, sottosegretario Faraone. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci Mario Rusconi, grazie. Sì, buonasera. Grazie, a presto. A proposito di scuola, ci prendiamo un po' di ricreazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ho detto ritornata dopo un malanno un po' lunghetto, eccomi qua, non proprio in forma splendente ma quasi, e leggevo ancora i vostri messaggi, tanti, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, a questo numero mandate gli sms e poi i vostri commenti anche sulla pagina del programma. E Marco per esempio dice sulla proposta provocazione di Poletti, che ha detto che 3 mesi di vacanza per gli studenti italiani sono troppo lunghi, bisognerebbe dedicarne qualcuno alla formazione, anche se poco fa il sottosegretario Faraone all'istruzione Faraone diceva insomma, bisogna vedere anche come organizzare questa cosa, potrebbe essere un'affermazione prematura, non dobbiamo spremere troppo gli studenti, magari si può spalmare negli altri mesi qualche giorno di vacanza, così diceva anche il vicepresidente dei presidi italiani Rusconi. I vostri messaggi continuano a essere un po' da una parte e un po' dall'altra. Marco dice la proposta di Poletti mi piacerebbe se anche gli insegnanti venissero mandati a lavorare d'estate come tutti gli altri lavoratori. Beh, comunque lavorano, ognuno c'ha i suoi turni, i suoi contratti. Poi Riccardo da Firenze, vacanze più corte per gli studenti era ora, in Stati Uniti e in Nord Europa già lo fanno da diverso tempo, dovrebbe essere possibile già per i quindicenni. Poi Alessio, potrebbe essere una buona idea solamente se fosse facoltativo e soprattutto se quel periodo valesse ai fini pensionistici. Ancora poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Antonella Bertè Rossi, che dice insegnante precaria da 13 anni nella scuola superiore, dice davvero che bello, come vorrei avere un mese di ferie pagato invece di 3 mesi di disoccupazione con un'indennità aspida fame che arriva con mesi di ritardo. Bruno dice ha ragione, un mese più che sufficiente. Camilla, Poletti dimentica che nella scuola superiore i docenti sono impegnati negli esami di Stato fino a metà luglio, che ci sono i corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio e che da dopo Ferragosto ci sono le prove per i rimandati a settembre. Ora di grazia, dice Camilla. Dove li vede lui 3 mesi di vacanza? Insomma, poi continuerò se c'è tempo con i vostri tanti messaggi. Adesso vi ricordo le notizie principali della giornata. Oltre a queste, poi affrontiamo un altro tema. Il vertice oggi tra Merkel e Tsipras, vogliamo una Grecia forte, dice la cancelliera tedesca. Rispettiamo i trattati, assicura il primo ministro Tsipras, ma sono necessarie correzioni però sul piano sociale. Crisi, la ripresa in Europa si rafforza, è ottimista il presidente della Banca Centrale Draghi. Scuola per il ministro Poletti, come dicevo sono troppi 3 mesi di vacanze, ma gli studenti replicano non conosce la realtà. Renzi interviene alla LUIS, chi parla di governo autoritario lo dice perché è pigro e sulla legge elettorale, assicura Renzi, tra 5 anni ce la copierà mezza Europa. A Monza si è costituito il presunto pirata della strada che domenica ha causato la morte di un 14enne, tra poco ne parleremo. La strage di Tunisi, oggi si è tenuto l'ultimo saluto ai funerali per le vittime italiane. Calcio, siamo in attesa della sentenza su Calciopoli, che dovrebbe arrivare a momenti, si pensa, e poi la polemica sul caso degli oriundi in nazionale. Vi dicevo quindi dell'incidente che c'è stato domenica mattina a Monza, dove è morto un 14enne e chi ne ha causato la morte è scappato e si è costituito oggi. L'autista di un SUV si è presentato volontariamente al comando della polizia locale. Si tratta di un 40enne brianzolo che per il momento è indagato a piede libero. Secondo la ricostruzione più accreditata dei vigili, l'uomo ha provocato l'incidente, costato la vita al 14enne di Villa Santa, Elio Bonavita, travolto domenica mattina all'incrocio tra Viale Brianza e via Ramazzotti a Monza, mentre si trovava in macchina con la madre quarantenne, che è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in coma al Niguarda di Milano. Il presunto pirata della strada si è presentato, vi dicevo, alla polizia col suo avvocato difensore. Per lui è scontata l'iscrizione nel registro dei indagati in relazione a questi fatti di domenica, ma secondo quanto si apprende da Palazzo di Giustizia resta indagato a piede libero. E qui ritorna il tema scottantissimo dei pirati della strada e dell'omicidio stradale. Ne vorrei parlare con Giordano Biserni, che saluto. Buonasera Biserni. Sì, buonasera Giordano, anche lei. Che è presidente dell'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale, che da anni e anni continua insistendo sulle campagne di prevenzione e anche sulla necessità di cambiare la legge in questo senso. Anche il presidente del Consiglio Renzi, se ricordate, nel suo discorso di insediamento, quando divenne appunto presidente del Consiglio, disse che questo sarebbe stato uno dei primi temi che avrebbe trattato, quello dell'omicidio stradale. Torna tra l'altro il ministro dell'Interno Alfano poco fa, in un tweet ha scritto che bisogna appunto fare questa legge sull'omicidio stradale. Lei, Biserni, a questo punto che cosa pensa? Io penso che intanto si vedrà quando la vedrò scritta sulla Gazzetta Ufficiale. Io conosco molti atteggiamenti di ministri che in passato si sono dichiarati più volte favorevoli, prima sfavorevoli, come la cancelliera le ricorderà, dal ministro interno era sfavorevole all'omicidio stradale, poi dal ministro della giustizia il 9 gennaio 2014 si dichiarò invece favorevole, altrettanto fece mi pare il ministro Passera, prima favorevole, poi sfavorevole, se non ricordo male. Insomma, ecco, ci sono queste condizioni che ci lasciano in qualche maniera un po' perplessi. Per esempio, si è pronunciato il ministro dell'Interno con un Twitter, ci fa molto piacere, sappiamo che sostiene la tesi di Matteo Renzi fin dall'inizio. Non conosciamo il parere, per esempio, per ora almeno, io non lo conosco, del ministro della Giustizia, Orlando. Ci piacerebbe conoscere cosa ne pensa di questa proposta che è stata avanzata da noi con la raccolta di 80.000 firme fin dal 2011 con le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni, che ha un larghissimo consenso popolare, che i fatti dimostrano, compreso quello che ha detto lei di Monza, e io aggiungerei quello di stanotte anche a Piove di Sacco, dove un ragazzo ventenne sembra sia stato urtato e deceduto cadendo in un fossato, sembra sia stato urtato da una vettura che poi si è data alla fuga. Ecco, di fronte a tutta questa sequela di situazioni, incidenti drammatici, la risposta per il momento è stata piuttosto vaga, dilatoria, con molti se e molti ma, che secondo noi non trovano ampia giustificazione, e lo abbiamo spiegato perché se vogliono continuare così si faccia pure. Però deve essere chiara una cosa, che allo stato attuale, ormai è chiaro ai più, anche quelli che scappano, soprattutto per chi è drogato e per chi ha bevuto in eccesso, veramente in eccesso, sopra 1,5, oggettivamente quasi quasi conviene scappare. Se vuole dopo le spiego perché. Sempre in collegamento, Biserni? Sono qua. Ah, ecco, no, mi sembra di aver perso la sua voce. Dicevo, adesso lei saprebbe dare un quadro, anche in percentuale, in numeri, insomma, di quanti incidenti di questo tipo con pirati della strada avvengono in media in un anno? Ma guardi, io il quadro complessivo glielo do e le do anche le percentuali di quelle legate all'alcol, perché facciamo un passo indietro. Purtroppo dal 2009 l'Istat e ACI non ci danno il dato degli incidenti alcol-narco correlati. Noi non sappiamo, mentre gli altri paesi sanno ora per ora quello che avviene sulle strade e quali sono le responsabilità, noi lo apprendiamo, gli incidenti dell'anno prima li apprendiamo a novembre e non abbiamo questa analisi delle condizioni psicofisiche dei conducenti. Allora viene in soccorso l'osservatorio del Centauro ASAS, lei ha detto che da tempo seguiamo questi drammi della strada e li monitoriamo. Abbiamo creato questo osservatorio fin dal 2008, quindi lo conosciamo bene i dati, l'avevamo già osservato fin da prima. Bene, lei considera che nel 2014 l'osservatorio del Centauro ASAS ha registrato 1.009 episodi gravi intendiamo, o con feriti importanti o con decessi, e quali sono morte nel 2014, solo nel 2014, 119 persone e 1.224 hanno riportato ferite anche molto importanti in molti casi. Il 58% di questi pirati della strada viene identificato o subito dopo o tempo dopo, come il caso di Monza. C'è anche da aggiungere che la droga, diciamo in questa percentuale di 1.009 casi, la droga e l'alcol erano presenti in circa il 20% di questi episodi, ma nei 5 anni addirittura era più alta la percentuale, il 25% delle piraterie stradali, oltre 5.000 dal 2008 ad oggi, con oltre 800 morti, vedono il 25% di pirati che sono risultati ubriachi e drogati, ma quelli individuati nell'immediatezza. Perché vede Giordano, il pirata che è stato identificato oggi perché si è costituito, noi non sapremo mai ieri mattina le condizioni psicofisiche di questo signore quali fossero, perché oggi la Polizia Municipale ha attivato le indagini e i rilievi di Monza, non potrà più praticare l'etilometro o fare un accertamento con narcotest, perché darebbe forse esito negativo e comunque l'eventuale pirata, non parlo del caso specifico, sia chiaro, potrebbe dire no, scusate, io ho bevuto e ho assunto sostanze dopo perché ho avuto paura, arrivederci, grazie. Insomma, Giordano Bisani, rimane per il momento purtroppo un argomento molto aperto. Adesso dicevamo di questo tweet del ministro interno Alfano, vediamo se è la volta buona che si parlerà, almeno si proverà a discutere del reato di omicidio stradale oppure no. Io intanto la ringrazio, Biserni. Bene, ce lo auguriamo anche noi, visto che domani ci sarà questa riunione della Commissione della Giustizia al Senato, che sembra voler affrontare e accorpare i cinque proposte di legge per farne un unico testo che poi sarà messo ai voti, prima gli emendamenti, poi ai voti. Quindi potrebbe essere l'occasione per aggiornarci a breve. Ce lo auguriamo. Grazie a lei, buonasera. Grazie. Aggiorniamo chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguo tra poco con le notizie, ricordatovi le principali, guardavo ancora i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, sempre sulla polemica suscitata dalle dichiarazioni di Poletti sulle vacanze degli studenti troppo lunghe in Italia. Per puntare a un modello educativo bisogna avercelo, dice un ascoltatore. Poi a proposito della proposta di proibire i promessi sposi, come diceva Renzi, a scuola proibire i promessi sposi per renderli attraenti equivale a proibire la marijuana per renderla più attraente, ma Renzi capita di pensare, dice un ascoltatore piuttosto critico. Irene poi scrive: non è una brutta idea quella di dedicare dei mesi delle vacanze in parte alla formazione, ma non si potrebbe fare con tutti gli studenti, solo con quelli da 16 anni in su. Poi dovrebbero essere formazione necessariamente salariata, e se non salariata allora non obbligatoria, perché lavorare gratis non piace a nessuno, e con riconoscimenti, crediti formativi, verifiche eccetera. Molti altri vostri messaggi, però vi ricordo quali sono le notizie principali di oggi. A parte questa provocazione proposta del ministro Poletti, poi Renzi che dice alla lui se io autoritario non decidere porta in realtà nella palude, all'anarchia. E poi è stata un'ora dal presidente Mattarella per ricevere poi l'interim alle infrastrutture. Il vertice oggi tra la cancelliera Merkel e il premier Tsipras, premier greco, vogliamo una Grecia forte, ha detto Merkel. Tsipras ha detto rispetteremo i patti, però ci vuole più giustizia sociale. E poi ancora da Salvini al PD parte la corsa per il dopo Pisapia, visto che oggi il sindaco di Milano annunciato che non si ricandiderà. Calciopoli è attesa la sentenza della Suprema Corte sul ricorso dell'ex direttore generale della Juve Moggi. Oggi saluto alle vittime di Tunisi, ci sono stati funerali a Torino e poi si è costituito a Monza il pirata della strada che avrebbe travolto il 14enne uccidendolo a Monza domenica. Europa 24 notte. Allora, nello spazio europeo direi di parlare senz'altro dell'incontro oggi tra Tsipras e Merkel. Abbiamo sentito in sintesi cosa si sono detti. Merkel: vogliamo la Grecia forte, economicamente che cresca, che abbia una disoccupazione sempre più bassa, in particolare quella giovanile. Tsipras: vogliamo rispettare i trattati, ma ci devono essere delle correzioni per la giustizia sociale. Vittorio D'Arol, del Sole 24 Ore. Questo in sintesi quello che si sono detti. Non è stato proprio decisivo, diciamo, questo incontro? No, assolutamente non è stato decisivo, ma probabilmente fra qualche tempo sapremo effettivamente che cosa si sono detti nella cancelleria, perché i due, naturalmente, guardando davanti al Parlamento e alla piazza antistante la cancelleria, avranno guardato fuori, ma avranno anche guardato al futuro dell'Europa e della Grecia, quindi avranno visto che cosa si può concedere e che cosa appunto resta un limite invalicabile. Tutto questo non è stato espresso oggi, ma verrà naturalmente fuori fra qualche tempo. Nel prossimo Consiglio europeo sapremo se la Merkel è riuscita a ricucire una situazione che, secondo gli economisti, è sempre più complessa, perché Tsipras ha veramente difficoltà di liquidità a tenere, quindi a rispettare i patti, a rispettare le scadenze e nello stesso tempo però a rispettare le promesse che ha fatto alla sua base sociale di ridurre l'austerity, combattere la corruzione e combattere anche l'evasione fiscale. Tra l'altro, proprio nel minuto che ci rimane, Vittorio, mi pare che insista Tsipras sui risarcimenti per la Seconda Guerra Mondiale, per i danni causati, no, dal nazismo. Sì, questo è un aspetto negoziale. Naturalmente la Germania ha già detto che non c'è discussione su questa questione perché è già stata ampiamente, diciamo, ricompensata nel 60 con un trattato apposito, quindi fa parte un po' di questo meccanismo di guerra a distanza. Sì, di contrattazione per costringere un po' la Germania a più miti consigli. Ma Tsipras ha attaccato anche la BCE. Oggi Draghi ha anche parlato molto di Grecia durante un'audizione al Parlamento europeo, dicendo che praticamente non c'è ricatto, perché c'è stata un'accusa da parte di un parlamentare appunto che c'è un ricatto nei confronti di Atene, perché la BCE non accetta più i collaterali, ha ridotto un po', diciamo così, la liquidità, e invece Draghi ha risposto che la BCE ha 104 miliardi di esposizione verso la Grecia, il 65% del PIL greco, e a dicembre non solo 50, quindi ha rispedito al mittente questa accusa. Grazie Vittorio D'Arold. Ciao Vittorio. Ciao, grazie. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso corriamo da Dario Ricci. Non c'è stata ancora la sentenza sul Calciopoli, vero Dario? No, siamo in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, proprio sul la sentenza di fatto, Roberta, che scriverà la parola fine, qualunque essa sia, alla vicenda Calciopoli dopo ben 9 anni, perché la Cassazione dovrà confermare o meno le sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Napoli nei due processi celebrati, uno con rito ordinario, uno con rito abbreviato, rispettivamente nel dicembre del 2013 e nel dicembre del 2012. Luciano Moggi, lo sappiamo, l'ex direttore generale della Juventus, il principale imputato del processo, è presente in aula e la vicenda, diciamolo subito, sembra avviata a chiudersi con una dichiarazione di esistenza dei reati commessi, ma senza condanne per prescrizione. Altro capitolo sarà vedere invece dal punto di vista civile, cioè delle eventuali sanzioni e danni pecuniari che potrebbero o meno rimanere in piedi, e anche lì c'è una situazione piuttosto complessa. Grazie Dario Ricci, noi tra poco.